tarina kolorna tiki marumpera di bereng bapana donna tarina kolorna tiki marumpera di bereng bapana. Jolo dadana ku judi si aite kon narap marmea mea mudo ulo kutorua marika marlo jongi martabuni martata alalas ni roha doa takadong ang magodang tadong lo si pata naso tarlupa on nagabisi ngoto dung magodang si pata keo molo ningo na uju di siga dadana kon di siga dadana kon di siga dadana kon di siga dadana kon. Sipata cikula mabege sarap biri-biri rere tumara-mara jala olo mekir dan olo suda sarap biri-biri rere tumara-mara sarap biri-biri rere tumara-mara sarap biri-biri rere tumara-mara. Itu aneh molo marmea mea pami si tolo mona mar katabel mar juki mar paruk lil mar kuletia kita sodok itu anon Corre.